Fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è. Siamo tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, delle adozioni, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma come va bene, ma che domande. Anche se sto praticamente mutante. Qua se ride. Noi siamo in siamo in aumento esponenziale. Stanno facendo liste in tantissimi comuni. Il prossimo anno sono 7.000 i comuni. E che cazzo devo fare io, vivere in quel cazzo di camper tutta la vita? Maledetti! Non ci sto a stare lì con 2.000 miliardi, oltre 2.000 di debito, a pagare 100 miliardi di interessi all'anno e morire in un angolo senza protestare. Io voglio informare la gente e poi è la gente che farà un referendum e deciderà se stare dentro o fuori dell'euro. Pazzo qua Cortina, tutte nude, sì, ma col visone, ma come va bene? Ora dico una cosa, Parenzo. Grillo oggi ha perfettamente d'accordo quando dice che questa roba sul finanziamento pubblico che ha annunciato Letta con un tweet, cioè Letta oggi, il Presidente del Consiglio, ha annunciato che verrà eliminato il finanziamento pubblico. Però attenzione, non fatevi prendere per il culo, non fatevi prendere in giro. La situazione è molto, molto diversa. Ha annunciato che c'è un'intesa sull'abolizione del finanziamento pubblico. Poi ci sarà un disegno di legge in Parlamento, discussione, no, perché basterebbe, non proprio sulla norma, un tratto di penna. Innanzitutto cominciate a non dare a non prendere i quattrini. Beh, ma è la procedura normale. No, non dire stupidaggini. Quando si annuncia un disegno di legge è la fine. Ma come cazzo fai ad abrogare una legge se non con quella procedura lì? Spiegami tu, No. Un tratto di penna. Un tratto di penna, basta questo spesso. Quando c'è la volontà di farlo, innanzitutto non si prendono i soldi di questa tranche. Vi stanno prendendo in giro, ha ragione Grillo quando oggi dice che è tutta una buffonata, è un bluff. Tant'è che Cicchitto, il tuo amico Cicchitto, dice subito: beh, Cicchitto, io però. Cosa fa Cicchitto? Sto nome qua lo già. È presidente della commissione esteri, Cicchitto? Sì, non lo so, è presidente di qualche commissione. Comunque. Ma è quel Fabrizio Cicchitto di Forza Italia, poi del PDL. Sì, è lui, è lui. Però ti dico che Cicchitto ha detto che di essere contrario all'abolizione totale del finanziamento pubblico. E tutto questo, nonostante. Sentiamo un po' Berlusconi in campagna elettorale che cosa diceva sul finanziamento pubblico. Cominceremo già anche qui dal primo Consiglio dei Ministri a ridurre di molto i costi della politica, dimezzando il numero degli eletti in Parlamento, dimezzando il numero degli eletti nelle regioni, nelle province, nei comuni e abolendo del tutto il finanziamento pubblico per i partiti politici. Non vi fate turlupinare dai disegni di legge. Se uno vuole eliminare oggi il finanziamento pubblico lo può fare in due secondi, non prendendo i soldi come ha fatto il Movimento 5 Stelle, annunciandolo ovviamente perché ci sarà la prima tranche a luglio, non prendendo i quattrini. Poi naturalmente disegno di legge, decreto, fate quello che volete, però non vi fate fregare, il disegno di legge, poi c'è la discussione in Parlamento, quello sì, quello no, emendamenti e cose, e non si finisce più come al solito. Vittorio Sgarbi questa mattina all'aria che tira, i soldi li tengono lui e Casaleggio, perché c'è anche la polemica sui soldi. Sui soldi dati ai gruppi parlamentari, altri quattrini dati dalla Camera e dal Senato per il funzionamento dei gruppi. non si sa chi li gestisce questi del Movimento 5 Stelle. Grillo dice che non li gestisce lui, secondo altri sì, comunque hanno fatto anche un'interrogazione in Parlamento per sapere. Sbaglia completamente Grillo, che oltre a essere vecchio, bolso, inutile, dire cose troppo facili da dire, prende anche i soldi dalla politica. Cioè lui, invece di farsi dare i rimborsi, con questo famoso blog ha fatto una risposta che è l'uovo di Colombo: i soldi li teniamo noi, utilizziamo voi coglioni che state dalla nostra parte, che fate le proteste con noi, il blog funziona. Ma li tiene lui Grillo, li tiene il lui. Movimento 5 Stelle. Esatto, bravissimo, io l'ho scritto ieri. I soldi della pubblicità li tiene lui con Casaleggio. Parenzo, dobbiamo essere contenti, perché ieri Monsignor Gemma, l'unico vescovo esorcista, almeno così ci ha detto, l'unico vescovo esorcista esistente, perché gli altri, dice Gemma, non hanno contezza, cioè non capiscono che c'è il maligno e dunque tralasciano questa questione degli esorcismi. Monsignor Gemma ci ha esorcizzato, dunque possiamo stare tranquilli. Sante Michael Arcangele defende nos in prelio contra nequitiam ed insidia diavoli esto presidium impere tilli Deus supplices deprecamur tu che princeps milici celestis Satana maliosque spiritus malignos a perdizione manivarum per vagantur immundo in infernum detrude. E poi vi esorcizzo. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qui nel giorno in cui Rubi ha parlato nuovamente al Tribunale di Milano, caro Parenzo, dicendo che spesso confonde la verità con la menzogna, che spesso si è inventato delle frottole, eccetera, eccetera. Ma abbiamo con noi uno che davanti al Tribunale di Milano c'è stato per tanti anni, poi ormai si dedica ad altre cose. Paolo Brosio, buonasera, ciao Paolo. Buonasera a tutti, ciao. Come stai? Bene, voi tutto a posto? Hai scritto un altro libro su Medjugorje, ormai è diventato una sorta di tormentone, no, basta. Non è un libro su Medjugorje. Nella terra delle meraviglie, a Medjugorje la Madonna scende in campo, una cosa pazzesca. È un viaggio nella fede dove si parla anche di Medjugorje, ma si parla di altri tesori sconosciuti che sono in seno alla Chiesa e che la gente non conosce. Senti Paolo, ma tu ci credi all'esorcismo del Papa? Argomento insomma di grandissima importanza. C'è quel gesto del Papa davanti a quello che Monsignor Gemma dice di essere un disgraziato, cioè un malato, in questo senso diceva, è un gesto di esorcismo, sì o no? No, per me il Papa, tanto questo Papa qui è un dono del cielo. E vabbè, d'accordo, prima questo di tutto. Secondo, ha fatto un gesto che possa essere sicuramente spontaneo, ma che ha avuto il merito di attirare l'attenzione su un problema che è enorme, cioè quello che nessuno o poche persone credono più all'esistenza del male nella persona del demonio. Cioè del demonio, dici. Nessuno crede più al demonio. In quella maniera ha fatto chiaramente, perché si vedeva benissimo, un gesto di liberazione, di guarigione di impurità spirituali negative di guarigione, di preghiera, di intercessione al Signore, di guarigione fisica. Scusa un attimo Paolo, però ha fatto un gesto di esorcismo, sì o no? Lui ormai si è diventato un esperto di queste cose. Allora, attenzione, il gesto di esorcismo lo fa chi è esorcista, ma la liberazione, la guarigione dalle impurità spirituali, dai demoni, la può fare chi ha il carisma di guarigione. Vabbè, tu stai dicendo che il Papa, appunto perché il Papa è un esorcista. Ma ha fatto una preghiera di liberazione, di guarigione, che quando tu hai l'investitura ufficiale della Chiesa e sei esorcista, è un gesto di esorcismo. Altrimenti è la preghiera di guarigione, di liberazione. No, perché il carisma arriva allo stesso risultato. Però scusa, cioè, David, libera dal demonio. La televisione dei vescovi in Italia l'ha classificato, poi se n'è pentito naturalmente, come un gesto Signor Boffo. Scusa, il signor Boffo. Un gesto di esorcismo. Vabbè, comunque. Certo, ma è un in pratica è un gesto di esorcismo. Oh, ma tu sei mai stato l'esorcismo lo può fare chi ha il mandato dalla Chiesa di essere esorcista. Cruciani, il Papa può essere il Papa più santo e più buono del mondo, ma può non essere esorcista. Ma magari lui è esorcista, che ne sai? Carisma fa una preghiera di liberazione. Magari lui è esorcista. Anche un laico carismatico, per esempio nel seno del rinnovamento dello Spirito Santo, che è uno dei gruppi di preghiera più importanti del mondo, ci può essere una persona che ha il dono della preghiera. Ma tu, scusa un attimo Paolo, guarigione di liberazione, tu, e può liberare dagli spiriti impuri. Tu sei mai stato posseduto dal demonio? Sì. Allora, le possessioni demoniache, grazie a Dio, sono pochissime. Tu sei mai stato posseduto o no? Ma io, grazie a Dio, no. Voi sì? Ma io non lo so, boh. Io penso di no, perché altrimenti sarebbe un bel, e sarebbe un bel problema, ragazzi. Beh, lo so. Io ho visto le possessioni demoniache. Vabbè, ma hai avuto il demonio in corpo tu o no? È una cosa tremenda. Io con padre Matteo La Grua, sì, ancora vivente, a Palermo, sì, frate... francescano conventuale, uno dei più grandi carismatici, sì, al mondo, ed era addirittura lui, è stato uno dei maestri di insegnamento anche nei confronti di padre Amort, che è il più grande esorcista, sì, vivente. Io ho visto più di 4-5 liberazioni da possessioni demoniache, ma ci vogliono degli anni per liberarsi. Senti, ma tu che tipo di... che nessuno tipo crede più. Nessuno non solo crede che più. Nessuno crede più, ma nessuno sa, per esempio, io non ci ho mai creduto, che attraverso la cartomanzia, la chiromanzia, che succede? Attraverso i segni zodiacali, attraverso, sì, la numerologia, attraverso le sedute, vabbè, spiritiche, si può arrivare ad essere preda degli spiriti impuri. Quando si rivolse a noi in questo modo, caro Parenzo, Emilio Fede era posseduto sì o no dal demonio? La domanda ce la siamo posta noi all'epoca, no? Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'Inpgi, sì, di liquidarmi il mio fondo pensioni. Quanti soldi devi avere dall'Inpgi? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma... si è arrabbiato con loro? Ma avete rotto i coglioni! Siete delle merde! Andate a cercare nel mio privato. Ma noi abbiamo cercato. Ma noi che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. La tredicesima e stipendio 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Ma scusa, andate a fanculo! Scusami Paolo, ma se non è demonio questo del tuo ex direttore, che cosa è demonio? Scusami. Va bene, io devo dire che questo è un attacco di ira funesta, ma non è demonio. Le possessioni demoniache siano altre, magari c'è ancora peggio secondo te. Ci sono vari tipi di possessioni demoniache e poi le impurità spirituali vanno da un minimo al massimo, magari una fase. Ma questa però mi sembrava davvero una possessione demoniaca. È un attacco di ira, ma lui era frequente a attacchi di nervosismo, sì, ne so qualcosa. Sì, Senti un attimo, ti posso chiedere chi hai votato, Paolo? Dunque, allora, io dal 17 febbraio 1992, da quando hanno arrestato il presidente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesi, che non io voti. Ero già lì insieme a tutti i colleghi di Corriere, sì, della Sera, Repubblica, che ho avuto, dopo 7 anni di mani pulite e aver letto tutti i verbali dei processi, delle indagini preliminari, dei rinvii a giudizio, il rifiuto, il rigetto di questa politica. Vabbè, hai votato o no queste elezioni? E quindi nelle ultime elezioni non ho più votato. Senti una cosa, ma non ti fa impressione una volta... Perché, sai cosa? Soprattutto da 4 anni mi sono convertito, mi sono reso conto che a prescindere dall'arco costituzionale dei partiti da destra a sinistra, quello che secondo me manca in questi politici è il... Ora, non tutti, perché sennò si fa demagogia, ma il rispetto... dei comandamenti. Ora, i 10 comandamenti... Vabbè, adesso non è che devono rispettare per forza i 10 comandamenti. Allora, se uno rispetta i 10 comandamenti, io penso che rispetti poi il codice penale, il codice civile... Però scusa, ma ti volevo chiedere una cosa, Paolo. Allora, qual è il mio consiglio? Non ti fa un consiglio qual è? Tutti dovrebbero pregare. Sì. Sarebbe bene che i senatori, la Camera dei Deputati... Purtroppo anche quelli che pregano mangiano poi. Due bei aerei e andassero a pregare a Međugorje. A Međugorje? Sono illuminati dallo Spirito Santo. Ma guarda che qua anche quelli che pregano poi mangiano come dannati. Scusa. No, quelli che pregano e magnano, allora vuol dire che non sono convertiti, caro mio. Perché conversione vuol dire rispettare i comandamenti. Rispettare i comandamenti vuol dire rispettare il codice penale e il codice civile. Senti, Paolo, voglio chiederti una cosa. Sì. Non fa impressione, Parenzo, il fatto che una volta davanti al Palazzo di Giustizia c'era Paolo Brosio per Mediaset? Non ti ricordi, no? A fare quelle meravigliose dirette durante Mani Pulite, eccetera. Passò alla storia per quella roba lì. E adesso ci stanno i deputati del PDL. Caro Paolo, adesso io penso che per fare la cronaca ci saranno anche dei colleghi. No, d'accordo, più giovani, però hai capito quello che voglio dire, no? Sì, no, ho capito, però diciamo ma che... all'epoca Berlusconi ti sosteneva quando facevi Mani Pulite, diciamo, Mediaset era spada tratta, cioè, a favore dei giudici, no? Ho dato tutte le notizie delle indagini preliminari, degli arresti. No, ma all'epoca Mediaset era a favore dei giudici. sia Paolo Berlusconi sia Silvio Berlusconi, ci ho fatto il mio lavoro fino all'ultimo istante. No, voglio dire, all'epoca... Quando davo la notizia dell'avviso di garanzia a Silvio Berlusconi, Fede mi faceva la domanda altre 7 volte se ero sicuro, però la davo. Però scusami, Paolo, ma all'epoca Berlusconi, Mediaset, era una spada tratta a favore dei giudici, te lo ricordi, sì? Da tratta a favore di giudici. A favore. Guarda, di Mani Pulite, dai, colori. Quando hanno arrestato Primo Greganti era in crisi il Partito Comunista, quando hanno arrestato Gardini e naturalmente poi si è suicidato, è fuggito Sama, Montedison, il messaggero era in crisi, quando hanno arrestato Paolo Berlusconi era in crisi Mediaset, quando cioè lì è toccato a tutti, d'accordo. I maggiori manager della Fiat andate in però crisi all'epoca cioè, ragazzi, ma... è stato un tormento per tutti e si è scoperto un pentolone, no, insomma. D'accordo Paolo, però voglio dire che all'epoca Mediaset, tu lavoravi per Mediaset, era in prima linea a sostenere i giudici di Mani Pulite, te lo ricordi? Certo, no? In prima linea, diciamo che c'è stato poi un momento in cui, quando le indagini si sono orientate invece, perché ci sono state più di 2000 perquisizioni a Milano 2, a Cologno, in tutti gli uffici amministrativi, e chiaramente in quel momento vi potete immaginare cosa significava fare il cronista per Mediaset, no, cioè dare le notizie, Bronzio, era diventato difficile, però si davano, io e Pamparana li abbiamo sempre dati. All'inizio, come dite, scusa, non ho capito. No, è Parenzo che ogni tanto. No, dico anche tu, ciao Paolo. Anche tu, nella tua prima fase, quando facevi i collegamenti lì davanti e ti passava il tram dietro, alle volte è passato sempre dal 92 fino al 97. Ma poi sono andato a Brescia, anche tu, e poi ho fatto la campagna di La Spezia, tutte e tre. Ma eri praticamente eccitato ogni volta che partiva un avviso di garanzia. No, me lo non ricordo. Era quello era esattamente. Quell'euforia professionale di rendersi conto di trovarsi di fronte, dopo il secondo conflitto mondiale, alla più grande rivoluzione del nostro paese. Va bene, grazie, ciao Paolo, ciao. E mi raccomando, pregate. Beh, oddio, adesso voglio dire, si può fare anche in un altro modo, cioè... pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio. Zanzara! Teo da Foggia, buonasera. Buonasera, grazie. Dica. Mi sarebbe piaciuto interagire con Paolo Brosio. Vabbè, però... vada veloce che poi devo dare la linea GR, su. Ah, già devo... Vada. Ma già detto, ma già dato... Allora, Cruciani. Allora? Già. Allora, io stasera avevo chiamato per contestarla, invece... sono d'accordo con lei per quello che ha detto con Grillo, per quello che ha detto di Grillo, che è inutile fare questo decreto. Non so da chi era quel signore che ha detto questa è la prassi, ma questa è la prassi della presa per il culo di ogni diventati 40 anni di democrazia falsa. No, poi vedremo, ovviamente, poi vedremo se sarà, come dico io, una presa per il culo, perché la cosa è questa: si vuole o no abolire totalmente il finanziamento pubblico, e allora non c'è bisogno di un disegno di legge per fare la riforma dei partiti o per prevedere chissà che cosa. Ci dicono come, ci dicono la verità, ancora non si sono messi d'accordo, questo è il punto. Dicono che vogliono eliminare il finanziamento pubblico, vedremo quello che succederà. Il disegno di legge è una roba lunga, può essere una roba lunghissima, gli emendamenti, una cosa, un'altra. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. Mi scuso con il PM San Germano di aver raccontato delle cavolate, ma la maggioranza delle cose che ho raccontato nei verbali, come ho già detto prima, sono delle cavolate. Ti ho beccato! Rubacuori di nuovo in tribunale dice che ha raccontato nei verbali delle cavolate. Ancora Rubi. Aveva denunciato 7.000 euro all'epoca, adesso ricorda 5-6.000? Ma no, io posso ricordarmi quello che la mia memoria mi fa ricordare. Lui c'ha tutto scritto, se lo può ricordare meglio di me. Quindi allora, se dice 7, sono 7. Prima di tutto, cambi tono, assolutamente. No, scusami, no, mi stia a sentire e non mi interrompa. Lui c'ha tutto scritto, non è un modo di rivolgersi né al pubblico ministero né davanti al tribunale, ok? Prendila, prendila, scherzala, scherzala, ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho beccato. E da sempre ci ho provato, ti ho inseguita, ti ho inseguita. Ragazzi che si spogliavano, ho raccontato anche di personaggi mai visti, tutto quanto solo per far capire. Io non l'ho fatto, era semplicemente per far capire che non ho mai fatto la prostituta. Mi rendo conto di aver detto delle cavolate, sono oggi per dire la verità e mi dispiace anche l'averle raccontate. E balli su twist. Beh, ma spiegami una cosa, ma come si può imbastire un processo sul fatto che prima quello racconta cavolate, poi e poi smentisce, dice una cosa dunque, e poi dai su, ma è un processo assurdo, dai dunque, su. Se lei vuole parlare seriamente, no, signor Cociano, vuol tornare fammi mandare i titoli del TG3, dai su. Vuole parlare del demonio ancora? Fammi mandare ancora i titoli del TG3, dai. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Letta ha trovato in Consiglio dei Ministri l'accordo per lo stop al finanziamento dei partiti. Nei prossimi giorni il disegno di legge con le nuove norme. Il ministro della pubblica istruzione minaccia più soldi per la scuola pubblica o mi dimetto. Domenica a Bologna il referendum sui finanziamenti alle paritarie. Comizi di chiusura per i candidati alla carica di sindaco di Roma. Il TG3 in diretta con le piazze di Alemanno, Marino, Marchini e De Vito. In campo anche i leader. Rubi ancora in aula, processo contro Fede Mora. È vero, ammette, ho detto molte cavolate, la memoria può fallire, niente sesso però con Silvio. La 14enne che si tolse la vita a Novara, indagati per istigazione al suicidio e detenzione di materiale pedopornografico, alcuni minorenni suoi amici. Attacco dei talebani a Kabul, ferita in modo grave anche una funzionaria italiana. A Londra i giovani killer volevano uccidere ancora, fermati dagli agenti. Eccezionale ondata di maltempo in tutto il nord, nevicata alle porte di Milano, esonda il lago di Garda e per la bufera sulle Alpi annullata la tappa del Giro. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Ora va bene che i senatori e i deputati mettono da parte i soldi che successivamente vengono restituiti con la liquidazione, no Parenzo? Certo. Però francamente Andreotti che muore e la famiglia deve incassare €1 milione e pare che il Senato non abbia nemmeno i quattrini, mi sembra qualcosa di paradossale. Cioè i familiari hanno richiesto, credo che accada con tutti, il versamento di €1 milione, però forse il Senato non ce l'ha, c'è un problema di liquidità. Capito? Come, beh, al Senato venderanno qualche arazzo evidentemente, se la legge, paradossalmente, se la legge che hanno fatto questi qui prevede questa roba, ed è bene hanno fatto. Ho capito, ma la liquidazione a un certo punto per i senatori a vita dovrebbe essere eliminata, ma che vuol dire? Al limite non c'è dubbio. Cioè la liquidazione serve tra l'altro al reinserimento nella vita, in questo caso non c'è nessun reinserimento perché è morto, perché quello è crepato, quindi. Per cui di che stiamo parlando? No, certo. Perché €1 milione lo devono prendere gli eredi di Andreotti? Cioè, spiegamelo, quello ha fatto 60 anni no, in Parlamento. Non devo difendere nulla, dico semplicemente che. Ma poi tu lo sapevi che c'era l'assicurazione sulla vita? Cioè i deputati e i senatori hanno anche un'assicurazione sulla vita, sicuramente se la pagheranno in parte con lo stipendio. Beh, sì, questo era scritto nel libro di Stella e Rizzo ancora tempo fa. Senti Malan, senti il senatore Malan. I senatori a vita godono anche loro di un'assicurazione sulla vita. Il che è un po' paradossale perché è chiaro che moriranno in servizio i senatori a vita. Eh beh, è proprio una contraddizione in termini, cioè l'assicurazione sulla vita si fa nella previsione che tu insomma mori prima, no? In questo caso sicuramente incassi alla morte. Se non sbaglio, I parenti. Beh, certo. Siamo qui 800240024, mentre si discute dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e Epifani a confermare quello che dicevo. Sai cosa dice il segretario del Partito Democratico? Che bisogna abolire il finanziamento ai partiti, però gradatamente. Gradatamente. Lo sai perché? Per tutelare coloro che lavorano nei partiti. Tu dimmi se questa cosa non fa incazzare. Cioè, se un'azienda fallisce perché viene amministrata male o perché l'economia va male, certo, i lavoratori se la pigliano in quel posto. Però chi lavora nei partiti deve essere tutelato di più, perché siccome questi qua hanno incassato dei soldi e gonfiato i dipendenti in previsione dell'incasso dei quattrini, allora lì vero, però i lavoratori si devono tutelare. Dopodiché c'è l'altra faccia della medaglia, sì, che a fronte delle cazzate che hanno fatto ingrossando la macchina dei partiti con burocrati che non servono a nulla, oggi non è che puoi mettere sulla strada dall'oggi al domani altra gente, quindi lo devi fare con criterio. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo dice? Ma chi lo sostiene? Se bisogna abolirle domani hai un altro esercito di disoccupati. Ma che me ne frega a me? Ma c'è un sacco di gente che perde il lavoro ogni giorno nelle imprese, adesso mi devo preoccupare della gente che perde il lavoro nei partiti. È la zanzara. Fabio dalla provincia di Chieti. Pronto? Fabio, dica. Salve, buonasera. Non si sente nulla. Cesare dalla provincia di Fermo, buonasera. Buonasera, signor Cucciani, buonasera. Senta, io mi trovo d'accordo con lei che il finanziamento pubblico andrebbe abolito immediatamente, anzi avrebbero dovuto già farlo. E invece io volevo intervenire sul fatto del demonio, sì, che in pratica prendete schernendo e portando un pochettino in giro come fate con tutti quanti, d'altronde il vostro stile, però dovete stare attenti su come parlate del demonio. In che senso? Scusi, dobbiamo avere paura? Beh, no, paura no, perché se uno si affida a Gesù e prega soprattutto, Che dobbiamo fare? Non dovete fare nulla, io volevo solamente mettervi all'attenzione che bisogna trattare queste questioni con un pochettino di rispetto. Ma noi non abbiamo rispetto per nulla e per nessuno. Lo so, io ho visto persone e ho trattenuto persone perché per un periodo ho aiutato un esorcista qui nel centro Italia cambiare voce e tenere persone in 4 o in 5 uomini e non riuscire neanche a tenerli. E allora? Allora bisognerebbe avere un pochettino di rispetto, tutto qui, perché come entra il demonio nelle persone non si sa. Basta girarsi l'angolo a avere, che ne so, un pochettino di disattenzione, affidarsi, come diceva Paolo Brosi, a cartomanti, cartomanzia e compagnia bella. Poi e può entrare il demonio, vabbè. Sì. Chiamiamolo demonio, io non ci credo. Pietro da Monza, buonasera. Buonasera Cucciani, buonasera a tutti. Dica. Io volevo intervenire su due fatti che forse sono andati un po' nel dimenticatoio, che sicuramente questa sera non sono stati oggetto di che cosa? Mi dica. Di citazioni. I due folli, perché sono folli, uno a Milano che ha preso a picconate e ha ucciso... E l'altro? E l'altro, i due che hanno tagliato, fatto a pezzi un soldato britannico... Vabbè, allora dunque, mi dica, vada al sodo, Pietro. Vado al sodo. Per me un gesto civile è definire colui che, sparandogli alle gambe, fermandoli, evitava di avere questo scempio. L'allargamento di quello che se n'è andato in giro per... No, ma sa che io non ho capito nulla, Pietro. Lei che cosa dice? Non ho capito. Dico che è civile il fatto che qualcuno spari per fermare... Ho capito, non è successo. Non è che abbiamo pistoleri a ogni angolo della strada, cittadini che hanno il porto d'armi, che appena vedono qualcuno si dovrebbero trovare in quel posto, in quel momento, avere la forza di prendere una pistola e sparare. Io non ce la farei, anche se avessi la pistola, ma proprio per questo forse non ho la pistola. Vabbè, lei vuole fare l'elogio di chi eventualmente spara alle gambe di queste persone, giusto? Esatto. Vabbè, pazienza. Questo è un paese da rifaccia, mi rido troppo. No, perché ci sono tutte le televisioni, c'è Ballarò, c'è questa gentaglia, c'è questa gente qua, quelli che... No, fermi, no, quelli che mettono, ma no, che loro facciano il loro servizio. Ma loro hanno fatto una cosa infame, hanno messo in rete e hanno fatto vedere l'indirizzo di casa mia, il numero civico, la villa, la casa. Hanno inquadrato mia moglie, i miei figli, hanno messo le televisioni di giorno e notte. Però trasparenza, Parenzo, in Germania queste cose le fanno. In Germania? Ma non ti mettono delle telecamere ovunque? Ma sono dei criminali. criminali. La trasparenza va bene quando te la dico io, ma è una cosa criminale. Ma il signor Vespa con quel nome lì ti manda una telecamera fuori di casa e ti intervista, una cosa bestiale. Ma non esiste al mondo che un giornalista ti intervisti, ma solo alla Zanzara, ma dei coglioni, ma che domande sono? Ma sono io che metto il messaggio nella rete, è evidente. Vittorio! Sì, eccolo! Dove sei? Sto andando a Padova a fare una presentazione del libro Nel nome del figlio. Nel nome del figlio, ma quale figlio? Il figlio è Cristo in questo caso, visto che parlate di esorcismi. Ah, in tema. Gli esorcismi. Era meraviglioso, vi siete dimenticati il passaggio del più bell'articolo di Merlo, sì? Dove traduce la postura del Papa che mette le mani sull'indemoniato supposto, sì? Dicendo che è come un'operazione di pronoterapia, come, sì, un pronoterapeuta, che è meraviglioso. Sì. Tradurre una cosa che ha un carattere così apparentemente legato a ciò che non possiamo conoscere in un atto invece di massaggio alla testa è meraviglioso. Senti, ma hai visto... Io vorrei dire una cosa subito a Vittorio, però. Dimmi una cosa. Vorrei che Vittorio chiedesse scusa a Isa Boccassini. Perché? Ti spiego perché. Perché ha ricevuto, come avete visto in questi giorni, sì, una busta con proiettili, minacce, le hanno scritto ti ammazziamo, cioè dopo la requisitoria sul caso Rubi c'è, sì, stato un crescendo violentissimo nei confronti della PM, e quindi vorrei che anche Vittorio le chiedesse ufficialmente scusa. Vittorio? Scusa, ho sbagliato. Beh, intanto volevo dire una cosa sulle parole dette da Grillo poco fa, che il metodo che lui improvvera a una parte delle televisioni è esattamente quello dei grillini della primora che facevano capo a un tale, sì, Ricca, che si è visto in questo periodo. Ricca, come no, Ricca, sì. Mentre tu camminavi per strada ti mandavano qualcuno a provocarmi, che vedevo due o tre volte, che filmava tutto e lo mandavano su blog, quindi esattamente quello che, quindi un meccanismo bizzarro, questo non dice una cosa che sia logica. No, peraltro Ricca sta con lui adesso è andato sul palco di, del comizio finale di Roma, e Ricca è praticamente grillino. Esatto, no, ma lo era anche prima, poi è tornato, ha avuto la lite con lui, ma il metodo era quello, ma anche a Siracusa, anche a Rosolini mi sono trovato con meccanismi di questo genere in cui ti provocano, tu ti incazzi, ti prendono tutto. Ma detto questo, volevo convenire con il dottor Parenzo addirittura che uno si scusi di ciò che ha detto, di ciò che ha fatto. Dal momento che io non ho mandato pallottole alla Boccassini, ma le ho ricevute quando ero sindaco e nessuno si è scusato con me, evidentemente chi manda pallottole non si scusa, e chi non le manda può scusarsi in nome dell'umanità. Nella fattispecie generalmente chi riceve pallottole non viene ucciso, quindi non darei a questi segnali alcun significato, tantomeno legato a Berlusconi o a chi è imputato, perché se arrivano delle pallottole a qualcuno, arrivano evidentemente in nome di una retorica che non corrisponde ai fatti. Le pallottole quando arrivano ti uccidono. Cioè non, tu stai dicendo che queste pallottole che sono arrivate alla fine è roba che non è... Non c'entrano niente con Berlusconi e niente con il processo, c'entrano con un'antipatia sostanziale per un magistrato che guadagna almeno 8-9 mila euro al mese. Ma che c'entra? Un parlamentare. Sto dicendo, non lavora se non quando decide, sì, e negli ultimi anni si è occupata di cene e incontri con Fede e Mora. Cioè, se io devo pagare un magistrato perché la sua attività sia studiare quello, beh, che ma se dici così, e mi pare che nulla è più insensato del processo in cui una ragazza che deve essere parte lesa insiste da anni, ormai due anni, sì, nel dire che non è parte lesa di nulla. Allora i processi si facciano per le persone che fanno violenza, che uccidono, che tolgono il bene alle persone in un momento in cui la gente, sì, non ha lavoro. Però, scusa, non è che un signore privilegiato con scorta e che vive per fare un processo in cui c'è il male che è Berlusconi, pagato anche da me, riceve due pallottole, io mi dovrei scusare. Si scusi la Boccassini di non fare processi che abbiano collegamento con i reati veri. Ma tu dici, scusami, a Milano in via Spiga la gente, sì, rischia di essere uccisa, libera, e questa processa Fede e Mo, anzi, quindi sono un altro processo ancora, ma vabbè, Berlusconi, eccetera, eccetera. A sentire la requisitoria per delle, io vado a cena con chi pare a me. Io ho visto a cena Parenzo fare delle porcherie che sono peggio di quelle che vengono attribuite a Fede. Che faceva? Scusa, che faceva? ma faceva delle maialatte tipiche della sua mentalità di maniaco sessuale, il quale però allora fa il moralista, ma siccome essere maniaci sessuali non vuol dire niente, legge il capitolo di Petrolio in cui il protagonista sì. sta Pasolini, vabbè, ma che c'entra a fare pompini a ragazzi che paga Petrolio e Pasolini. Allora, però scusami Vittorio, quando tu hai detto che bisogna prendere a calci, quando tu hai detto una volta che bisogna prendere a calci il culo la Boccasini, no? Appunto, sì, certo, i calci del culo sono metaforici. Secondo qualcuno, leggo oggi su Repubblica, alcune minacce, probabilmente anche queste qua, secondo questi investigatori, hanno fatto esplodere. Ma non è esploso niente, il malumore è verso una privilegiata che ha la scorta da 20 anni. Che non rischia niente, che fa processi sulle cene e però deve essere anche uccisa. Mi sembra un po' troppo che uno venga ucciso per i processi sulle cene. Per quello che riguarda Falcone e Borsellino, che sono stati uccisi, sì. la Boccasini ha avuto un solo momento di nobiltà, quando ha rimproverato colleghi di Falcone di fingersi amici di uno che hanno invece cercato in tutti i modi di ostacolare. Sì. È l'unico momento di nobiltà della Boccasini. Per il resto non vedo che rischi corra. Non vedo perché devo pagare 500.000 euro all'anno per la scorta della Boccasini. Vabbè, qualcuno lo deciderà. Devo pagare. No, non vedo il pericolo, non lo vedo. Però se tu fai un processo contro una cosca mafiosa pericolosa, lo capisco. Ma se fai un processo. Ma lei li ha fatti nel passato, sì, i processi. Li ha fatti nel passato, appunto. Hai fatti le pallotte. Vabbè, sai che la mafia ti ammazza anche 20 anni dopo, 30 anni dopo. Sì, appunto, ma farà anche questo. Però certamente il caso Rubi non c'entra niente con le pallottole. Cioè, ti sembra un'operazione mediatica questa qua delle pallottole? No, ma non so chi l'abbia fatta. Probabilmente sono anche pallottole vere, ma l'ho ricevute anch'io. Ma non ho mai visto nessuno. Non vuol dire un cazzo, dici te, non vuol dire un cazzo. Niente, cioè voglio dire, non è che le pallottole sono un teatrino di una cosa immonda causata da un processo grottesco e insensato che avrà come culmine la richiesta di condanna a fede perché andava a cena da Berlusconi. Ma siamo impazziti? Per cui è lei che deve chiedere scusa? È lei che deve chiedere scusa? Deve chiedere scusa agli italiani di aver inventato un processo che neanche in un film di Alberto Sordi avrebbe senso. Un processo grottesco contro la giustizia, contro la verità. Per cui non rischia nulla, secondo te, queste minacce che ci sono su web, che minacciano di ammazzarla, ti uccidiamo. Vabbè, io ne ho avute migliaia. Ma è anche giusto insultarla per il processo a Berlusconi, secondo te? Ma non la sto affatto insultando. No, ma in generale. Non è un insulto, dico semplicemente che la parte lesa è non la Boccasini, ma gli italiani. Cioè, ma la parte lesa non è di quella come si chiama, io ho capito, perché secondo te hanno speso dei soldi inutili. Sì, hanno speso dei soldi inutili. Ma è una cosa, noi dobbiamo pagare per un processo in cui una va lì ormai da settimane a dire che non le è capitato niente, che non è una prostituta. Cioè, se è parte lesa la Rubi, è parte lesa perché è stata chiamata puttana dalla Boccasini. Si scusi la Boccasini di chiamare puttana una ragazza che fa quello che fanno tutte le ragazze e che non mondo, dice di essere puttana, dà la figa a chi vuole e non la dà a chi vuole. Se quella cos'è che fa, dà la figa a chi vuole. Sì ho capito, dà la figa a chi vuole, come qualunque ragazza l'abbia data o non l'abbia data. Invece è stata chiamata puttana negando di essere stata parte lesa, è diventata parte lesa della Boccasini. Senti, ma tu voti a Roma, fossi... Vittorio, se tu fossi? No, io non voto, ma io vado a votare, insomma. Che ne votare so? No, poi tanto io voto a Ferrara. Se tu fossi? Se io fossi a Roma voterei Marchini. Ma non è no, ma hai detto se tu fossi, stavi finendo il discorso sulla Rubi. No, se io fossi la Rubi, farei una causa contro la Boccasini per diffamazione. Ah, comincerei, ok, ho capito. Avremo altri 4 anni di Bernardini. Beh, sarebbe De Pace, meraviglioso. Chiamatela Bernardini De Pace. Processo alla Boccasini perché mi ha chiamato puttana, invece sono una che dà la figa a chi pare a me. Quello che ha risposto la Jespica. La Jespica non è una puttana, dà la figa a chi vuole. Il lunedì, se vuole, la dà a pagamento. Sì. Il mercoledì la dà gratis e la dà a pagamento perché le piace di farlo. Ma sei sicuro di questo? La dà a pagamento? No, il lunedì. Pagamento, non è che no, perché puttana, ma me lo dici? Ma figuriamoci, io ho sostenuto in tempi non sospetti e mi hanno attaccato per questo, che il fatto che ci siano delle persone che offrono il proprio corpo a persone potenti a pagamento è la prova provata che siamo in una democrazia. Tanto esisterà sempre questa cosa. Queste cose è una sola che si deve scusare, la Boccasini con gli italiani. Vai, questo lo dici tu. Punto, non c'è nessun altro. Va bene, grazie. Ciao Vittorio, a presto, ciao, un abbraccio, ciao. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza che gira. Fabio dalla provincia di Chieti. Buonasera a tutti i radioascoltatori, complimenti per il programma. Vada. niente, io volevo niente, dalla mia testimonianza, che una decina di anni fa c'avevo una radio che riuscivo a accappattare delle telefonate, no? Sì. Riguardo alle persone indemniate, esorcisti e roba varia. Premetto che io non ci credo a tutte queste stronzate, a queste fatture, queste cose. Comunque sono rimasto scioccato perché ascoltai proprio una telefonata di un padre cipriano che sta nel San Severo, provincia di Foggia, che veniva chiamata una persona che era posseduta dal demonio, dal diavolo, e questo gli diceva le preghiere, le cose. Ma c'è tanta gente che, scusi un attimo, c'è tanta gente che impazzisce e non si trova, Parenzo, il motivo per cui impazzisce questa gente. Ma non è necessariamente, c'è molta gente va di matto, no? Da di matto, non è che si capisce bene il motivo. Spesso sono motivi psichiatrici complicati, non è che deve essere per forza il demonio, no? Beh, non ci certo. Deve... io quello dico, non deve essere per forza il demonio. Fabio, allora invece lei secondo lei era il demonio? Questo padre esorcista esiste veramente, padre Cipriano sta in una chiesa di San Bernardino a San Severo che comunque sì, lo so, eseguiva queste sì. pratiche esorciste, è molto conosciuto, insomma sapevo che questo era reale, questo fatto qui, però io non mi sono mai trovato, però è stato un caso, una casualità. Ho ascoltato questa telefonata e sono rimasto molto scioccato da questa situazione. Va bene, grazie. Diego da Savona, buonasera Diego. Buonasera, dica. Io telefonavo perché mi domando come mai Parenzo è favorevole al finanziamento dei partiti e mi sono dato tre risposte A me lo dice. No, io ho detto un'altra cosa. Si dice la solita cosa che dicono tutti, cioè senza finanziamento pubblico ci sono le lobby, i ricchi, queste puttanate. Dai. Una minima quota va destinata al finanziamento della politica, rendicontata, depositando i bilanci alla Corte dei Conti. Non tutto si può fare in Italia perché tanto tutto diventa un pasticcio, bisogna abolire tutto, così la competizione è più aperta, le cose sono più chiare, chi vuole, uno deve bussare a casa mia e mi deve dire toc toc toc, mi dai soldi per fare politica, voglio fare politica, credi in me? Sì, ci credo, certo. Ti do 10 euro, 20 euro con la dichiarazione dei redditi, con l'8 per 1000, no, deve essere tutto, deve essere tutto. Oggi il segretario del Partito Democratico, il Partito Democratico, ma me lascia perdere il 10%, sono dettagli, sono dettagli. Il punto fondamentale è che oggi il segretario del Partito Democratico Epifani ha detto che per proteggere i posti di lavoro dei partiti, in particolare quelli del Partito Democratico, però, perché è il partito che ha più dipendenti, ha posto un problema, è diverso. Ma ha posto un problema sbagliato. Si ponga il problema per le imprese, non capisco come perché. Vale per le imprese, certo. Ma non è così, vale, ma quelli sono soldi pubblici. Ma perché non capisci un cazzo? Cioè, nelle imprese vale perché c'è la cassa integrazione, ad esempio, no? Nei partiti non esiste la cassa integrazione per i partiti, allora uno si pone purtroppo il problema di un esercito di persone. Ma quale esercito? Sono poche centinaia di persone, ci dobbiamo preoccupare di quelli, dai. Guarda su, che sono tanti, me ne frego, togliamo il finanziamento pubblico ai partiti e si trovassero un altro lavoro, su. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Un grande ritorno qui alla Zanzara, Paolo Villaggio. Caro Paolo, come stai? Ti sento astento qualche pezzetto di frase. Mi senti meglio adesso? No. No, non mi senti. Dimmi comunque. No, voglio sapere innanzitutto come stai, perché insomma abbiamo saputo... No, quello era una bufala. Ma è una bufala che ti sei inventato tu, no? No, perché ho portato un mio amico e io sono stato considerato ricoverato e il mio amico invece è stato considerato l'accompagnatore. Ah, ho capito, cioè era un tuo amico che stava male, no tu? No, non stava male nel senso che voleva fare un tracciato di elettrocardiogramma. Ma insomma, ti è successo qualcosa o no? Un piccolo malore? A qualcosa? Me no. Nulla, nulla di nulla. Lui è vivo, benissimo. No, perché tua figlia si era preoccupata, ha detto che i giornalisti sono stati degli sciacalli. Appunto, lei pensava, non ti racconto tutta la storia. No, per carità, però ha parlato dei giornalisti come degli sciacalli, delle cose tremende, perché hanno violato la privacy. Di giornalisti che hanno fatto gli sciacalli, hanno violato la privacy. Lo stesso, dai. Perché hanno chiamato gli ospedali, vabbè, è normale, sai. Erano arrivate brutte notizie. Vabbè, insomma, non so cosa dirti. No. Raccontato come la vicenda. No, certo. Senti, ma chi voti a Roma, Paolo? Ma io penso quello Marino si chiama? Marino, sì, uno di quelli è Marino, sì. Marino, sì. Quello del PD, diciamo, quello che si presenta col PD. Ma voto senza conoscerlo, senza conoscere i programmi, non lo so. mi sembra una ciaccapesta un po', direi, vecchio, stantio. Ma chi dici? Ma sì, bisognerebbe insomma non promettere, che poi sai, è molto difficile promettere un cambio completo di una città. No, certo, ma Alemanno quello che c'è adesso non ti piace proprio. Non ti sento, ahimè. Adesso riprendiamo la comunicazione, c'è sempre questo problema. Intanto sentiamo Achille da Roma. Achille. Buonasera all'uomo del futuro, libero all'uomo del passato, cioè, prigioniero. Indovinate un po' chi sono? Non ho capito nulla, Achille, l'uomo del futuro. Scusi, ho dato lei, se no mi mandi a quel paese perché non ci conosciamo. No, no, dimmi. Allora, l'uomo del passato è Parenzo, il prigioniero, perché non capisco come si fa a fare questi esercizi stilistici sull'abolizione del contributo di finanziamento ai partiti. No, perché la gente, il volere delle persone conta solamente quando, non so, ogni tanto, cioè, qui c'è stato un referendum, poi ci hanno fregato i soldi, ho qui dei dati clamorosi su quanti soldi i partiti hanno incassato negli ultimi anni, però adesso sì, bisogna abolirlo, però gradatamente. Ma quale gradatamente? Quale gradatamente? Perché ci sono 100, 200, 500, 1000 dipendenti dei partiti e chi se ne frega? Allora? A me, per favore, scusi, mi faccia arrabbiare a me, ecco, sì. Mi arrabbio io, poi... No, mi arrabbio anch'io. Allora, dicevo, Parenzo, con tutto il bene che io voglio, rappresenta l'uomo del passato, poiché non ci rendiamo conto che ormai sì. Alla politica dobbiamo chiedere più niente, no? A me, a chiunque, non deve risolvere più nessun problema. Il problema sono loro, devono diminuire la loro presenza. Meno politica e meno soldi. Però un attimo solo, Achille, perché abbiamo di nuovo Paolo Villaggio. Speriamo che senti, Paolo, se no è un disastro. Paolo. Male, ma non importa. Dai. Eccoci qui. Senti, ma il Papa ha fatto l'esorcismo secondo te o no? Penso di sì, è bravissimo in quello. Ah, dice, eh? È uno che si sta costruendo un'aneddotica da sant'uomo, ma sinceramente non è che certi interventi, i bambini abbracciati, eccetera, possono modificare la fede. Ormai lì bisognerebbe cercare di fare un'alleanza con le altre idee della divinità, ammesso che si possa credere sì. In un Dio qualunque. Ah, dovrebbe allearsi con altre? Bisognerebbe cercare di capire che se c'è un creatore, sì. Beh, è molto difficile che ci sia, vista la visione ormai mostruosa che c'ha l'universo fatto da miliardi di galassie. Quindi mi sembra che tutto un credo, quello che manca, voglio dire, è cercare di sostituire sì. Una fede nell'aldilà un pochettino più convincente. Ma come ti sembra questo Papa? Ma insomma, è un come Pertini, non so se lo ricordo. Sì, in che senso? A semplificare un pochettino il linguaggio elementare, ma insomma... A mio avviso sì, viene amato, viene considerato però... Francesco, un santo, ma non è che abbia modificato l'idea dell'aldilà, che è la cosa fondamentale della fede. Ecco, capito? Senti, Paolo, tu hai detto addirittura un imbecille, addirittura nei giorni scorsi, Ma non credo, un pochettino, sì. Un po' imbecille. Come era Pertini anche, un po' troppo semplice. Ah, ho capito, linguaggio. In questo senso infatti qua. Infatti è molto amato. Da un pubblico come quello italiano che parla un italiano piuttosto semplice. Vabbè, che stai mangiando? Poi me lo spiegherai, perché stai mangiando qualcosa, eh? Stai mangiando qualcosa. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco. Yo soy el tutorero con la pantofolita, te prendo e te mando, así puedo reposar. Sentite Vittorio Sgarbi sulla fidanzata di Franceschini, quella bella ragazza di 30 anni a cui Franceschini ha mandato, il ministro Franceschini ha mandato degli sms. Questa ragazza deve lasciarla a noi, perché è una bellissima ragazza che deve essere libera, non può essere nelle mani di Franceschini qua. Mandato sms per farla votare, ovviamente è sempre con noi Paolo Villaggio. Ciao Paolo, senti meglio? Benissimo adesso. Oh, sì. Meno male, finalmente, così possiamo dialogare in pace. È come se vi avesse già sentito, per molti anni che immagino che voi fate un tipo di che cosa? di politica. Ma sì, noi è molti anni, sai, che innanzitutto è molti anni che viviamo insieme, io e Parenzo, molti anni sì. Che viviamo insieme. Quello... E cambiare, no? Beh, siamo sempre una coppia abbastanza consolidata. Ma no, quello d'accordo, no, svecchiarla forse, scusami. Sì, svecchiarla con qualcun altro, una ragazza giovane. Sì, ma... però no, non parlo di voi, voi siete giovani ancora, no? Sì, sì. No, mi sembra che ormai la politica sia diventata stantia. Sì. Un po' ripetitiva. Ma da tempo che è così. Noiosa. Però. Sì. È tutto considerato... fa perdere un pochettino la speranza che tutte le promesse sì. Che chiunque partecipa a qualunque gara sì. Viene idolatrato solo quando muore in Italia sì. E sono parecchi sì. Anche della gente. Ma tu non hai paura di morire tu per esempio? Ma scusa, beh insomma io ormai sono rassegnato. Quanti anni hai scusa Paolo? 80 E tu capisci che facendo i conti insomma ormai comincio a aver meno paura. Allora accetto un pochettino con rassegnazione, d'altronde. Con rassegnazione. Sarebbe molto più comodo. Molto più comodo? Montazzini, anche se era vagamente ricoglionita. Alla fine dici, no? Sì, ma lo sai anche tu, te lo sai. Sì, sì, abbastanza. Ecco. Cioè non ti va di arrivare rincoglionito, dici? No, non è quello, di quello ormai è già successo. Senti, ma se dovessi soffrire, tu sceglieresti per esempio di andare in Svizzera dove vanno alcune persone a farsi ammazzare, per sì, esempio? Scusami? Se a un certo punto una persona soffre, no? Se tu soffrissi alla fine, ti faresti portare in Svizzera in quelle cliniche dove ti uccidono? No. No? Mi sembra una spesa inutile. Perché, dici? È perché così è quasi stupida, denota una paura, veri Monicelli invece che un grand'uomo. Quando ha capito che in Italia la buona morte non esiste, si è buttato dal quinto piano. E dunque tu cosa faresti se... Non ho il coraggio di fare come Monicelli, non lo so ancora, non l'ho ancora programmato, però certo fastidio, dà molto fastidio l'idea di avere poco terreno davanti. No, quello sì, no, sto dicendo in caso di sofferenza, sai, molta gente va in Svizzera... Beh, in caso di sofferenza non ho ancora messo a punto esattamente come sopportare. Cioè diresti a qualcuno di farla finita, di staccare la spina? No, assolutamente. Non lo so. Non lo sai, sono cose che uno non può decidere prima. Dice. No, non lo so, ma insomma se tu mi dai un buon consiglio magari... No, per carità, io di fronte a queste cose... Ma magari hai una certa esperienza tu. No, per fortuna no, per fortuna no. Quanti anni hai? No, 46, va bene, dai. Beh, sono 40, giovane. 46. Sì. Ma hai visto quello scrittore in Francia che si è sparato alla testa perché è contro i matrimoni gay? Ma ti rendi conto o no? E cosa faceva? Era contro i matrimoni gay e si è sparato alla testa, si è suicidato. Vabbè, insomma, mi sembra che una insomma, se uno che si è anche ha dichiarato esattamente che tipo di cervello poteva avere. Beh, mi sembra. mi sembra che questa sia l'unica risposta che si possa dare, sì. Senti, ma questo ministro noi non ce l'avamo sentiti prima, questo ministro di colore, ti piace questa signora Chieng? È stata una bella idea. Non è molto affascinante. No. No, assolutamente, anche perché parlano italiano e poi non ha neppure il passaporto italiano. Beh, ma no, come sì. No? Sì, penso di sì. Ma, sì? Ma non è stata una buona idea metterla lì, secondo te? Beh, insomma, no. Superflua, eh. È stata una cosa molto teatrale, insomma. Sì, e questo è vero, un po' una bandierina, dici hai tu, capito, no? Hai capito, sì. Sì, una bandierina. Poi è a favore dello Ius Soli, che chiunque nasce in Italia può diventare straniero, può diventare italiano, no? Sì, potrebbe anche succedere, però mi sembra che tutto considerato eleggere un ministro nero, sì. Quindi che finge di non essere razzista e di opporsi naturalmente a tutti quelli, invece ci troviamo episodi come quel poveraccio che hanno decapitato, sì. Qui è stato esannato dicendo due eroi, beh, insomma. La guerra santa, eccetera. Ah, in Inghilterra, cioè, tu dici che mettere un ministro nero è un pericolo? Ma non è un pericolo, è superfluo, perché tutto considerato non è che risolva il problema, lo si capisci? Sì, quello dell'integrazione, dici purtroppo, tu. Purtroppo, no? Sì. Ma tu utilizzi la parola nero o negro? Perché c'è un po' un... Negro. Negro, eh. Cioè, si può dire tranquillamente negro. È come vuoi chiamarlo. No, ma anche secondo me si può dire negro. Ma non è, ma non è bello. Ma come non è bello? Sì, va bene, ma fa parte, insomma, dell'ipocrisia tipica. È l'ipocrisia, dai, su, è l'ipocrisia. Ma fa l'ipocrisia, è una roba bruttissima. Ma io ho trovato dei titoli dei giornali italiani degli anni 50 e 60 dove si utilizzava tranquillamente la parola negro. Negro, sì, in prima pagina sul Corriere della Sera. Non è che negli anni 60 e l'Italia era più razzista di quanto lo fosse adesso. Io tuttora io li chiamo negri. E dunque la ministra la chiami la negra, insomma. Beh sì, certo. Ma come, vabbè sì. Ma che c'è di strano? Io non capisco questa ipocrisia. Cosa c'è di strano? Ma quale ipocrisia? Non si dice. Si pensa che negro sia oltraggiato mentre nero. Certo, i negri tra l'altro vogliono essere chiamati negri, non neri. Vogliono essere chiamati negri. Beh, insomma, tutti tranne quelli che fanno gli uomini di potere, eccetera. Sì, negro, sì, no. I politici di potere vogliono essere chiamati neri. Ah, certo, quelli un po' paraculi, dici tu, beh, no? Sì. Ma secondo te è italiana questa signora Chieng alla fine? Dice che è a favore della cioè a favore, insomma, ha una famiglia di 38 fratelli. Beh, ma quello è colpa del padre, forse. Cioè, in che senso? È un'attività sfrenata. Ah, dici, sì. Attività plurima, però che cosa straordinaria, questi mondi dove ci sono 38, una famiglia con 38 fratelli, una cosa pazzesca. Vabbè, da quelle parti, insomma, è l'unico divertimento, forse. Tu dici, tu dici. Ma non si spiega altrimenti un pazzo, un maniaco sessuale, poi si è detto alla moglie. Amore. È una mamma anche sola di 38 figli oppure no, più di una. Più di una. Beh, sì, no, è che cioè, ma 38 Ma no. Qual è l'obiettivo vero della vostra trasmissione? Nessuno. No, uno a caso. Non l'abbiamo capito nemmeno noi, guarda. Solo fare cacciare, ascolto, casino. Fare un po' di cacciare, dire stronzate, divertirci. Fare le cose razziste come le tue, basta. Divertirci. Serve? Sì, serve, ma non lo so, forse no. Forse beh, si vive, ci viviamo. Ci viviamo, campiamo per questo. Campiamo per questo. Hai visto Don Gallo, sì? Sì, lo conoscevo. Ma bene. Non è che doveva morire qualcuno al posto suo, perché è meglio che morisse qualcuno. Guarda, hai visto, lui è stato ammazzato. Come è stato ammazzato? Sì. Ha fatto troppo il santo, hai capito? Quindi indubbiamente l'hanno fatto morire per tempo. Cioè Giallo è diventato subito santo. Cioè Giallo è stato santificato velocemente. Ma non credo, veramente tu pensi che possa essere stato ammazzato? No, non lo penso, ma dico sarebbe però una notizia importante. Ma perché hai questo sospetto, scusa? Perché siamo in un paese dove si ammazzano giudici e uomini politici. Ma tu dici che lui era scomodo, per questo potrebbero averlo ammazzato? No, una mia così una buttata proprio di una buttata. Cattivo gusto. Vabbè, ho capito. Comunque, guarda, la cosa più incredibile è che c'è questo TFR per Andreotti di 1 milione di euro. Non so se hai letto da qualche parte. Cioè Andreotti, che è morto, deve incassare un TFR, un trattamento di fine rapporto, chiamiamolo così, una liquidazione dal Senato, dal Parlamento, di 1 milione di euro, e gli eredi di Andreotti pretendono questi soldi, pretendono questi quattrini, dicendo il Senato pare che non ce l'abbia, c'è un problema di liquidità, di cassa, eccetera. Ma tu ti rendi conto, Paolo, di quello che succede in Italia o no? Cioè, uno, Andreotti, 1 milione di euro di TFR di liquidazione, cioè il TFR di Andreotti è meraviglioso, o no? Beh, sì, meraviglioso, era un pochettino con la spina dorsale fuori posto. Beh sì, nonostante i soldi, ecco. Sì, alla fine, sì, dici. Alla fine, sì. Sì, alla fine. Comunque, 1 milione di euro per Andreotti è una cosa pazzesca, soprattutto il fatto che gli eredi vogliano, pretendano subito dal Senato l'incasso, no? Ma sono subito passati. Lo farei anch'io. Tu lo faresti anche tu, Beh, per forza. Vabbè, comunque, ti vedo, ti sento un po' abbattuto però in questi giorni. Che è successo? Sì. No, ti sento, no, non sono abbattuto. Ti sento giù di corda, forse ancora. Perché non mi diverte più parlare di politica, penso. Ah, non ti diverte più, eh? No. Ma Satana, se tu ci credi a Satana. È un gioco abbastanza perverso. Ma tu ci credi a Satana o no? A Satana, agli esorcisti? Sì, no, quello sì. Al diavolo. Sì, come no. Sì, Come, sì, avevo un compagno di scuola anche che era sì? Un po' diavolesco, sì, era un uomo cattivo anche. Comunque, vabbè, spero che non ti arrivi mai il diavolo in corpo a te. Che non... Mi è capitato. Di avere il diavolo? Sì. Cioè? Mi è capitato, non te lo posso dire perché ho promesso che non... No, ma questo è fondamentale, no. Scusa. No, è fondamentale per voi, ma io non sono capace di tradire un... Cioè, tu hai avuto, sei stato indemoniato? Sì. Beh, scusa, chi ti ha liberato da questo indemoniamento? Lui. Lui chi? che non posso dire buon'anima, perché lui sinceramente non ha paura di morire, perché non è nato già vivo, è morire. Ma, scusa, muore, come si manifestava questo demonio nel corpo di Paolo Villaggio? No, lui si è presentato a casa mia una sera verso le 6:30. Sì. E mi ha detto: sono il diavolo. Io le ho detto: vaffanculo, dico, il diavolo. Invece poi ha fatto vedere tutta una documentazione per la quale lui aveva influito su molte decisioni. Ah, ho capito. Importanti. Cioè era un diavolo in carne e ossa, stai dicendo? In carne e ossa, sì. In carne e ossa, vabbè, ma era proprio lui, eh? Come no. Ma c'aveva la coda? No, sì. Sembrava Andreotti vagamente. Ah, vagamente sembrava lui. Sì. Ma cioè era vivente oppure era proprio era proprio il diavolo che era lui. Paolo Villaggio, grazie, a presto. Ciao, grazie. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica sopportare di notte le zanzare. Vado a stare svegli per amare. Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica sopportare. Allora, secondo il Fatto Quotidiano pagano negli ultimi anni, sarebbero addirittura 23 milioni di euro lo stipendio a Ezio Greggio a Monte Carlo, un po' a Monte Carlo, un po' in Irlanda. In realtà lui dice in una lettera che è come la scoperta dell'acqua calda, che abita a Monte Carlo da 20 anni, che Bravo. Fa avanti e indietro con Milano, e che nell'articolo scritto dal Fatto Quotidiano di oggi, in cui ripeto c'è scritto che ha incassato negli ultimi anni, secondo il Fatto Quotidiano, da Mediaset 23 milioni di euro, eccetera eccetera, e insomma ci sono molte inesattezze, e ripeto, non c'è nulla di nuovo, dice Greggio. Sono a Monte Carlo, abito a Monte Carlo da più di 20 anni. Certo, fa specie il fatto che uno che comunque sembra avere la sua attività principale in Italia, perché fa Striscia la Notizia eccetera eccetera, viene appunto pagato a Monte Carlo. Questo comunque fa impressione, però secondo me non bisogna scandalizzarsi di nulla. Se è vero che quello risiede a Monte Carlo, fa ogni giorno 600 chilometri avanti e indietro da Monte Carlo e Milano, non ha la residenza a Milano, comunque passa i giorni che deve passare a Monte Carlo, può fare quello che vuole. Beh, io fossi nella finanza, qualche controllino per ma l'avranno già fatto mille volte i controlli su Ezio Greggio, figuriamoci, dai, su. Ma va bene, ma non è perché Ezio Greggio, che mi è anche simpaticissimo, è il concetto, no? Ho perché capito, ma il problema è il concetto. Comunque, tu il tuo parere l'hai espresso, cioè hai detto che a te non te ne frega nulla. No, nulla. A te invece nulla, bravo. Anche perché lui ha detto, per le attività che fa effettivamente in Italia, per le attività che fa in Italia, non so quale sia la distinzione, ma la posso capire, la posso intuire, lui paga fino all'ultimo centesimo. Dopodiché è residente a Monte Carlo e una parte delle tasse le paga a Monte Carlo. Ma va benissimo, ma io non lo dico a lui, infatti lui va benissimo, lo dico per tutti, anche quegli altri che prendono la residenza all'estero, perché ovviamente lì si pagano meno tasse. Non sarà il caso di Greggio, non sarà il suo caso, figuriamoci, non sarà il suo caso, ma qualche controllino, cari amici della GDF in ascolto, in generale va fatto. Ma eravamo con Achille o no? Non ho capito, c'è ancora Achille? Così mi hai fatto fondo l'orecchio, se posso. Allora, comunque, vai, dopo vai. Paolo Villaggio c'è sta tutto. Allora, volevo dire, ma Parenzo si rende conto che viviamo in uno stato comunista, il che penso gli possa anche far piacere? Ma cosa vuol dire lo stato comunista, scusi? Ma sì, quando lo stato ti ciuccia, se sei indipendente più del 50% dello stipendio, se c'è un'azienda il 65%, se devi aprire un'attività devi fare una trafila che per aprire un bar servono 6 mesi, 1 anno, se lo vuoi chiudere ti servono i soldi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ancora chiediamo soluzioni alla politica, queste sono le soluzioni che ci hanno creato, ci hanno ingabbiato, dobbiamo recuperare la libertà. Non so se vi rendete conto, siamo tutti sulla stessa barca, Achille, Cruciani, Parenzo, poi Parenzo magari si può fissare sulle questioni dati giudizi morali, su delle questioni per perdere un po' di tempo, così si arrabatta su Berlusconi, su Cassia, fa dati giudizi politici perché sta un po' più orientato a sinistra, magari uno un po' più ma sono tutte cavolate, siamo tutti sulla stessa barca, io guadagno 1000, tu guadagni 2000, ma alla fine la stessa pappa è, qua parliamo di 1000, 2000 a confronto di 100.000, 1 milione e via dicendo, e di una libertà che abbiamo venduto a questi qui, facendo una spesa pubblica nel corso degli anni che è esplosa a causa dei nostri comportamenti, andare a chiedere sempre favori al politico di turno che ci risolvesse il problema, e questo chiedere il favore ha comportato vendere prima il proprio voto, provvisorio la propria anima. Achille, sono totalmente d'accordo, grazie. Marco da Verona, buonasera Marco. Sì, buonasera a tutti e due. Io volevo solo farvi una piccola osservazione, perché quando chiama qualcuno che vi parla di signoraggio, Bilderberg, sì, questioni di Aspen, sì, ecco, voi siete un po' troppo, voi addirittura ci ridete sopra, voi scherzate, fate, le prendete in giro, ma se voi foste un attimino meno superficiali, andate a informarvi, magari non dagli ascoltatori se non gli credete, o da gente che... Senta, lo sa come le rispondo io sul signoraggio bancario, sul famoso tema del signoraggio bancario sollevato recentemente alla Camera da un deputato grillino, no? Sì. Non mi ricordo nemmeno come si chiama. Sì. Allora, Marco, la risposta è molto semplice, a me non me ne frega, devo dire la verità, ho provato qualche volta a leggere, mi sono annoiato terribilmente, a me non me ne frega un cazzo. Io lo dico molto sinceramente, a me del signoraggio, io ho il coraggio di dirlo, del signoraggio, sì, bancario, ho provato a capirlo, non ci capisco nulla, o comunque ci capisco poco, e soprattutto non me ne frega nulla, perché tanto penso che la mia vita, questa roba qui, non la cambierà. Non la cambierà, caro Marco, dunque non me ne frega nulla. A me, se qualcuno parla del signoraggio bancario, mi volto dall'altra parte. Ha capito o no quella la mia reazione? Sì, ma io facevo un discorso in generale. Ma che no, non è che ma lui il discorso del signoraggio bancario, basta con queste, no, cose. No, signoraggio, basta. Dico, quello di cui non si parla in TV, le cose più complesse, non è che non esistono solo perché non se ne parla, ma nei, no, media, ma italiani. Ma no, ma ho capito, ma su, ma non è, sì, il problema il signoraggio bancario, ma smettiamola con queste cose, su. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Bilderberg è un'organizzazione la cui radice è nella massoneria. Sì. Deviata, satanica. Satanica. Oggi ho pubblicato un documento in cui ho spiegato come il ruolo della pedofilia. Ma che dice? Nella massoneria, massoneria satanica. La massoneria satanica pedofila. Parenzo. Ma l'avvocato Marra. Questi sono i conigli che lei tira fuori ogni tanto dal suo magico cilindro. L'avvocato Marra. Le verità dell'avvocato. Detto anche il codice da Marra dopo il codice da Vinci, no? Senti come se la prende con Letta, signor Letta. Il Bilderberghino Letta, sì. Ma quanti sono i Bilderberghini nel governo Letta? Tutti sono Bilderberghi. Tutti. Bilderberghini. Sa o no della pedofilia all'interno della massoneria deviata Letta? Ma dai, su. È certo conscio del fatto che in ambiti massonico Bilderberghini... esistano questo tipo di pratiche. Ma tu capisci o no? Lo capisci o no? Ambienti Bilderberghini. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Ma è lei suo cugino che invita il signor Marra. Senti invece su Sara Tommasi, perché il signor Marra, come sapete, candidato a sindaco di Roma, Alfonso Luigi Complotti. Marra, beh, numero uno assoluto, lo voglio quasi tutti i giorni in trasmissione, praticamente ha detto che Sara Tommasi, con cui ha avuto una relazione, che ha aiutato, che ha sostenuto anche per un periodo, è cocainomane. Potrebbe finire malissimo ed è psicotica. Sì. In che condizioni la signora Tommasi? Pessime. L'ha vista, quando la si vede? No, non l'ho vista, ma la sento a volte per telefono che mi chiama. Quando a volte la si vede in questi video, cose in cui sembra che stia bene, perché le danno, secondo me, della cocaina. Sì. Sara, ma lei è cocainomane? È affetta, certo. Che Sara. È sì. Certo. E va bene, una domanda. La gente mica lo sa. È certo. Beh, certo, non è che la gente sa Sara Tommasi è cocainomane, insomma, è una cosa anche... Ma certo, è incredibile. Ma certo che è cocainomane, come no? Romualdo da Monza, buonasera, caro Romualdo. Buonasera, dottor Cruciani, buonasera, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo dire una cosa, voglio uscire un pochettino fuori dal seminato, io seguo sempre Radio 24 e sì. Allora? Mi trovo molto bene, interessante. Sì. Allora, guardi, io oggi ero con un collega e sì, ascoltavo... Collega di che cosa, scusi? Un collega di lavoro. Di merende, di che cosa? Sì, di merende. Sì. E quindi... allora questo, ma quale questo lavoro? Collega, che lavoro fa lei? Lavoriamo in un'azienda di... si può dire in... Lavoriamo chi? Lavoro in un'azienda adesso di imbiancature. Sì, va bene, d'accordo. Dunque, ecco, parlavate con, sì, questo collega? Sì, parlavamo e ci ascolta la radio tutto il giorno, dove spesso c'è Radio 24, però sì, vabbè, questo mio collega ogni tanto sposta un po' i canali. Sì. Oggi sono rimasto, si può dire così, folgorato dalle schifezze che molti speaker di radio italiane... Sì. Dipende che radio, dipende che radio ha messo, insomma. Guardi, io non io non voglio dire il nome perché non. Ma no, può dire tranquillamente, qui siamo aperti a tutto, siamo trasparenti, guardi, aperti. Lo so che è aperto a tutto. Guardi, tra RDS, per esempio, sì, o 101, eccetera. Sì. Ci sono programmi dalle 2 del pomeriggio, 2 e mezza del pomeriggio, che solo parolacce in continuazione, robe da... Vabbè, Romualdo, adesso io non so che trasmissione lei stava ascoltando, non mi interessa nemmeno in realtà. Lei stava ascoltando delle trasmissioni, sente delle cose che non le piacciono, c'è una cosa favolosa, fantastica, il potere immenso che abbiamo, che è quello della libertà. Cioè uno arriva, sente queste cose, tac, cambia. D'accordo, d'accordo. Tic, però vede, allora, il punto fondamentale che io vorrei un po' farmi capire, no? Sì. Che questo ho un ritorno pazzesco. Vabbè, allora Romualdo, d'accordo, dunque? Allora, ma non possiamo accontentarci di ascoltare tantissimi speaker che... Ma che me ne frega a me? Ma lei sta parlando con noi. Ma che gliene frega? Ma lei deve dare l'esempio. Ma io non devo dare l'esempio. Io al massimo la mando a fare in culo se lei insiste su queste cose qua. Lei è un maleducato, per esempio. No, io è una persona che stimo, perché è una persona molto molto preparata, secondo me è una persona molto intelligente. Ho capito, ma se lei insiste su questo argomento, siamo nel 2013 e le persone come lei, gli speaker come lei, non dovrebbero dire parolacce, perché poi nella macchina dove ci sono bambini che ascoltano, sì, non deve essere una cosa normale. Guardi che stasera, caro Romualdo, a parte che stasera non ho detto nulla. Guardi, a parte lei che gli scappa ogni tanto, no? Ma a me non mi importa, non è che qui stiamo facendo adesso la discussione su quello che accade nelle altre radio italiane. Romualdo, non mi interessa questa discussione, se lei insiste mi spinge a fare quello che ho detto prima, va bene? Annarella, come stai? Sì. Io sto bene, tu? Oh, cara, come va? Io sto sempre bene. Ma bene, l'altra volta stavi male, ti sei ripreso o no? Lo so, beh, sì, insomma, non è che sto proprio bene bene, ma comunque, come stavo, sto Parenzo, bene. Omaggio e saluta la signora Annarella. Annarella cara, un abbraccio fortissimo, tesoro, come stai? Ti dammo a campà. Ma chi... però basta dire parolacce adesso, ma che non le dico più parolacce. Ma come non le dici più? Sì, non le dici non più. Ma le dici sempre, giustamente, secondo me, le dici. Ma le dici a forza, dai. Per forza, dai, su, sì, per forza. Sì. Senti, chi voti domenica? Per chi posso votare? C'è anche Marchini, no? Marchini, perché Marchini che t'ha fatto? Marchini, che t'ha fatto? A me non mi ha fatto niente, è un bel giovanotto, un bell'uomo, però io sono di qua a parte. Ho capito, ma pure lui è comunista, era una famiglia di comunisti, di sinistra. Lo so, però io ci ho sempre parlato con Marini, sono stato pure... Marino, sì. A cosa là, uno si chiama, a un giorno da pecora con lui, sì, sul camion, e... Per cui, vabbè, lo conosci bene, Marino. Sì, lo conosci. Lo conosci. E Alemanno? E Alemanno? Senti, del piacere. Tanto, a parte che lui a me mi conosce. Ah, ti conosce Alemanno? Prego, a me mi conosce. Chi non mi conosce a me? E che ti dice? Niente, lui lo sa che io sono di sinistra. Perché io dico quello che penso, lo chiamo Nanetto. Nanetto lo chiami, e perché? Certo. Perché? E perché che è grosso. No, che vabbè. Pure quello. Ho capito. Il palmo d'uomo. Vabbè, ho capito, non è che uno... No, lascia perdere, Roma è piena di buchi, ha fatto un sacco di buchi, non ha pagato nessuno, non è che sono stati quelli di prima, sono tutti uguali, non che entra un altro, dicono uguale, è stato lui, è sempre è lo stesso ritornello, questa è una vita che va avanti così. Senti, mai visto Berlusconi, che è stato le motivazioni della condanna di Berlusconi? Che ma se sbrigassero, è che in galera non ci va. Ma se sbrigassero a fa cosa, dici? A mandarlo via proprio dal governo, a me non me ne frega niente, che se integrasse dentro un convento, non devi fare, basta che non vedo più la faccia sua. Ma dai, esatto. La sua è quella del Brunetta, guarda. Perché Brunetta che ti ha fatto? Ma l'ha visto che gli ha detto a Boldrini al Parlamento? Sì. Che si vedono le palle dell'occhi, e poi per quanta moltiplica da... ma quello lo vedo quasi tutti i giorni, Che gli dici? Ma come mi capita, questa settimana è stato sempre tempo brutto. Ma come lo rivedo, perché tanto lui si ferma il dottor io. E allora e che, affari sua. Che fai? Che gli dici? Ah, sì, tu vedrai quello che gli dico. Ma perché ce l'hai dato con Brunetta? Che ti ha fatto? È cattivo d'animo, ma lo vedi. Ah, c'è una cattiveria dentro all'anima che non ti dice mai. Dici? Io dico le parolacce, però io voglio bene a tutti. Io mettiamo con Fini, mettiamo con la Russa, che gli diresti a Brunetta? Tutti bene. Però Brunetta proprio non lo vuoi sopportare. Quello proprio no. Proprio no, ma che gli diresti a Brunetta? Bravo a te, già se ne ho dette tante. Poi vedrà un po' che alla Borghini gli ha detto un sacco di ascolta, gli ha parlato, se a fare sua, fammi vedere. Poi l'autista si mette a ridere perché la conosce, poi dopo se lui scendendo verso io. Poi per farsi riprendere, o chiama la polizia, va a parte di sotto del Parlamento per farsi per un passare davanti a me. Addirittura, cioè addirittura, si accorge che stai lì per non passare davanti a te? No, lui sa che io sono lì, no? Allora lui esce dal Parlamento, sì? Non esce più dalla parte del Montecitorio, esce dalla parte del sotto. Vabbè, non è che adesso c'ha paura Annarella. Vabbè, Nare, ciao, ti saluto, buona serata, ciao. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Siamo qui, la Zanzara, 800240024, Annarella! Annarella! Allora? La luna che sto a vedere! Che stai a vedere? Stanno a fare del piazza San Giovanni, piazza di San Giovanni in Dosso Marino! Ma ci stanno quattro gatti, tutte... E 44 gatti! No, ci stanno quattro gatti, ci stanno... ma ci stanno quattro gatti. Senta, vedi tu, voi a chi dite così, pure guarda, io voto Marino perché voto Marino. E vabbè, tu voti Marino. Ma se io non c'avevo Marino, indovina a chi le dava il voto. A chi lo davi? Indovina. E che ne so? Alessandro, a quel ragazzo dell'UDC, che ci voglio tanto bene. Ma chi è quello dell'UDC? Quello che sta al comune, uguale. Vabbè, ma che c'entra? Ha candidato sindaco. Il candidato... Ma quel chiama Alessandro, è un ragazzo giovane, bravo e bello. Vabbè, ma quello che c'entra? Quello è... Perché? Ma non è candidato, sì. Ma non è candidato sindaco quello? No, no, non si è fatto candidato sindaco, però se quello... io riesco ad aver voto. Vabbè, d'accordo. Perché ce l'avevo pure promesso. Vabbè, ho non capito. Non sapendo che il marito si è candidata. Comunque Berlusconi sta ancora là, Oggi sta... sta là. Sta facendo il comizio con Alemanno. Annarella? Stanno accanto a meno male che Silvio c'è, speriamo che c'è per davvero, il padre eterno con l'Eva. Ma no, pure te ti auguri ma che... Ma non è quello, se non stupido avete qua la faccia, se noi stiamo ridotti, non limo, ha messo lui qualcosa con quel delinquente del quello pregno lì di Milano, del dove, quello della Lega. Allora. Tremonti. E come sta Ditellino? Vabbè, ma capito. Ma messo lui o la prima da lui? Ma perché vuoi che muore? Ma non, a me non mi frega niente, basta che non lo vedo più. Vabbè, ho capito, non vederlo più significa che ti auguri... Ma tanto c'è un euro su vizio, sa? Dici? Vedrà che noi quando ci dico di venire via, e poi guarda, noi faranno il voto lì a Cannes, lo vanno via. Dici? No. Che vuoi dire, Parenzo, Annarella? No, voglio ricordare ad Annarella, dove vuole? No, perché sono in taxi, sto andando a fare un bancomat. Sì. Volevo... E sai che stanno ascoltando la Zanzara sul taxi? Beh, certo, come al solito. Come si chiama il tassista? Aspetta che forse... Massimiliano. Massimiliano. Io salgo, ma è bellissima questa cosa, che io salgo sul taxi... Sì? Ma di cosa ti stupisci? Voce, dico, ma io cazzo, questa voce la conosco, ed era la mia. Pure Annarella, allora. È una cosa straordinaria. No, voglio dire ad Annarella questo. A Berlusconi al Colosseo... Pieno bandiere azzurre del popolo della libertà, sì, che sventolano, garriscono gli striscioni, e Berlusconi che dice vi abbasserò le tasse, Alemanno sindaco. Che pensa la signora Annarella? Il suo commento sobrio. Dopo di che dire le parolacce, va. Allora che diresti? Allora dice sta pure il grillo, lui c'è sta quello del grillo. No. Che non è romano. Chi? Ma fanno schifo qui i scarponi, hanno interpellato non so che voce lì al governo, diceva manco un letto, manco un solo, tutti quanti, pensa un po' chi ci hanno messo, pensa un po' chi hanno eletto, tutti pecorari. Ma che c'è tra pecorari quelli di Grillo, dai, su. Ma che ne sanno dalla Costituzione quei quattro ballerini? Vabbè, ciao Annarella. Quello che dici te, Martini, ecco, adesso stanno a far vedere Martini. Allora? È Martini. È bello, no? Ecco, vedi, qua c'è sta quello dell'UDC Casini. Ah, oh, c'è una fotografia con Casini, qualche cosa di bello. Sto comprando persino il quadro d'argento, sì, e l'ho messo sopra al tavolo in camera da pranzo. Ah, poi la foto tua è quella è il nipote dell'imperatore, quello giapponese. Sì. Sono io, lui e la moglie. Pensa te, ciao. Eppure quella c'ho un corniciata. Ciao Annare, ciao ciao. Sei contenta che la Biancofiore è andata al governo come sottosegretario? Sì. La Biancofiore, sei contenta che è andata al governo? Sì, bella roba. Vabbè. La sganghenata peggio da me, io sono vecchia, ma lei che è giovane, ma non ha che di quel trombone. Vabbè, ma che trombone, dai, su. Vabbè, ciao Annare, ciao ciao. Oh, ciao. Quando ci vengo a Roma? Presto, presto, settimana prossima. Ciao. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Cristina da Asti, buonasera. Cristina? Non mi moleste moschito. Cristina? Non c'è. Pietro da Milano, buonasera. Sì, buonasera. E niente, volevo parlare del finanziamento pubblico ai partiti, se era possibile. Lei può parlare di quello che vuole, basta che vada subito al punto. Allora, volevo dare ragione a Palenzo. Non si può togliere il finanziamento pubblico. Ma come non si può? Si deve, non si, non ma adesso si le spiego. Lei prima diceva, uno viene a casa mia e mi chiede 10 euro, ok? Ma se uno viene a casa mia e gli dico, te ne posso dare 10 milioni di euro, capisce che si crea un rapporto che non va bene. Tutto trasparente, devo bussare alla porta, io politico, devo bussare... Ti pago io la campagna. Ma non è così, non pago nulla, io non voglio sborsare un quattrino, io non voglio sborsare un quattrino. Chiudo dicendo che in America, dopo che un ragazzo è andato a scuola e ha ammazzato tutti i compagni, le istituzioni, che sicuramente sono comandate dalle lobby delle armi, hanno detto se il bidello aveva la pistola quel ragazzino non sparava ai bambini. Senta, se le lobby delle armi, se le lobby delle armi, come per esempio la lobby del gioco, vuole sostenere qualche parlamentare, lo facciano in maniera aperta. Non è che dobbiamo venire a scoprire dopo qualche anno che magari qualche lobby o qualche azienda del gioco ha finanziato i deputati. Però facciamolo in maniera trasparente. Dobbiamo aiutare chi non ha il finanziamento, chi è quello delle armi, dice, ma chi l'ha detto? Ma non è un diritto, ma non è vero, non è così, non è così. Cioè, esiste comunque una disparità, non si può partire tutti dallo stesso piano. Cioè, non... Ok, ma lo Stato dovrebbe agevolare queste cose, dovrebbe dare un minimo, un finale, non so, lo studieranno. Cioè, se si rubano i soldi, è come dire, rubano al supermercato, chiudiamo il supermercato e non arrestiamo i ladri. Cioè, non mi sembra. Non è così, grazie. Pasquale da Ravenna, secondo me, eh. Pasquale da Ravenna, buonasera. Buonasera. Dica. Due osservazioni veloci. Una sul finanziamento pubblico ai partiti, sono d'accordissimo, va cancellato, l'abbiamo votato, ci hanno preso per il culo, quindi è giusto così, dei dipendenti del PD o degli altri partiti, poco me ne frega, no? Per quanto concerne la notizia di Greggio invece, che poi è collegata con il processo Rubi, le dico perché. Allora, Greggio dice sto a Monte Carlo, lei sa bene che nel testo unico delle imposte sui redditi c'è una presunzione inversa, è lui che deve dimostrarlo. Peraltro il criterio di radicamento è il domicilio. Senta, quindi è il luogo dove ha gli interessi. Ho capito. È l'Italia. Pasqua, per su. Rubi, no, per Rubi si è parlato tanto, ha ritrattato. Però ad esempio è certo che Berlusconi gli ha dato dei soldi, non li ha dichiarati neanche lei, è giusto che tassarli, ci sono sentenze dalla Cassazione innumerevoli che dicono che... Vabbè, ma qui non siamo al processo, il processo lo fanno nell'aula di tribunale, Pasquale, lo fanno nelle aule di tribunale. Oh, per Rubi la cosa che voglio dire è che Berlusconi, la giustizia ha accertato più volte... che ha comprato testimoni, giudici e quant'altro. Probabilmente anche la dichiarazione di Rubi forse non è attendibile. Chissà. Davide da Pavia, buonasera Davide. Sì, buonasera, ciao. Sì, lei col viva voce. Lei. Mio nonno in carriola, buonasera. Su, Davide. Non mi trattare male perché ti faccio i complimenti. Dai, Davide, ma stai col viva voce, non si sente nulla, su, dai. Mi senti? Sì, ho capito, ma lei deve mettere il telefono, lo deve prendere, lo deve avvicinare alla bocca, sennò non si sente. Ma l'ho attaccato da 2 ore all'orecchio, adesso mi senti? Sì, allora dica. Allora, niente, io per quanto riguarda, voglio dare ragione a Parenzo, perché anche nonostante tutto, lui vabbè fa il personaggio, però è una persona molto intelligente, è riuscita a capire che togliere i fondi ai partiti, ok, per le campagne elettorali e quant'altro, dai meno potere, dai meno forza invece alle persone forse un po' più deboli, e non riesce a far sì che riescano ad arrivare, cioè tipo il Movimento 5 lei non Stelle. Sa nemmeno, lei non sa nemmeno come spiegarsi, Davide, mi pare evidente che non sa come spiegarla questa cosa, perché pensare che senza finanziamento pubblico possono fare politica solo i ricchi è ridicolo, cioè è una cosa senza senso, ma così. Non è così, non è, bisogna cambiare il principio, ma non bisogna preoccuparsi di questo, bisogna preoccuparsi del fatto che se una persona è credibile devi andare a bussare alle porte e dire io voglio fare questo, questo e quest'altro, mi date i quattrini per farlo? Non c'è lo Stato che te li dà, capito? È un principio. Ma facile demagogia. Ma che facile demagogia, ci sono partiti in cui... L'80% che viene ricavato da quello che noi americani chiamiamo fundraising. Sì, vabbè, fundraising. Parla come mangia. Io sono in collegamento però, ho capito, stai zitto un attimo. Sono in collegamento con... Con chi? Con nessuno. Nicola da Chieti, buonasera. E allora fai tutto questo casino? Per Nicola da Chieti, posso sì, parlare? Ciao. Ci manca solo l'argomento che starate toccando adesso. Volevo dire all'uomo che ma che si dice che? Ma possiamo parlare alle 20:50 di fundraising? Ma dai, su, Nicola, parla come mangia. Nicola da Chieti, fundraising alle 20:50, dai, su. Fundraising. Fundraising, dai, su. Alessia Bellon, buonasera. Perché lei dà 150 euro a chi la vuole votare? Un voto di scambio? No, assolutamente no, è il minimo che si possa fare per le famiglie trevigiane. Ma no, scusi, lei è candidata a Trieste, a Treviso per Indipendenza Veneta, vabbè, sì. Lasciamo perdere Indipendenza Veneta, però 150 euro, lei a chi mi vota se sarà eletto ovviamente, no? O no? Certo, certo, se sarò eletta capito, è il minimo che si possa fare per le famiglie trevigiane. Ma scusi un attimo, ma lei praticamente consegna dei danari in contanti, non è una promessa elettorale, è dare dei soldi se uno la vota. Ma perché come è così scandaloso? Cioè definire bene gli obiettivi del proprio lavoro è il minimo. Ma non è un obiettivo questo qua. Lei, io sto dicendo, vabbè, votatemi perché poi passate alla cassa e vi do 50-100 euro. Ma su, ma non, che senso ha? Ha il senso di essere responsabili di definire dei risultati, degli obiettivi del proprio lavoro, come tutti i veneti ma lei fanno. Ma tanto lei lo fa, signora Bellon, perché tanto non ha possibilità zero di essere eletta, diciamo la verità. Cioè... Allora, diciamo che voi siete passati, prima di tutto, dallo sceriffo di Nottingham qualche giorno fa, vabbè, lo sceriffo... cioè, vale a dire Gentilini, adesso a me che sono stata definita Robin Hood, quindi siamo... in questo contesto sì. da foresta di Sherwood, che sì. È Treviso. Treviso, voi non so se sapete, ma quest'inverno è stata la città con un altissimo numero di suicidi, purtroppo. Vabbè, ho capito, non è che risolve dando 150 euro a chi la vota. No, allora, è un segno tangibile del fatto che la politica deve diminuire il costo verso i propri cittadini. Ma come è segno tangibile? È segno tangibile del fatto che lei offre dei soldi? Viviamo nel peggior inferno fiscale del mondo. Vabbè, ma questo qua lo sappiamo, lo dicono tutti questo qua. E lei come lo vuole risolvere dando 150 euro a persona? Ma dai, sì, su. È il calcolo che noi abbiamo fatto, che sono le risorse che noi riusciamo a recuperare immediatamente nel 2013. Parenzo, dimmi qualcosa, dai. Di ma qualcosa è immondizia pura, è un modo barbaro di fare politica, signora mia. Ma che roba è? Ma allora concretezza, è un risultato concretezza. Ma sì, ma concretezza. Non siete abituati alle cose concrete. Per la prima volta che un politico definisce perfettamente i propri obiettivi. Ma qui non c'è un obiettivo. L'obiettivo è quello di dare 150 euro a persona. No, a famiglia. A famiglia, cioè per 38.000 famiglie. Per quante sono? Sì, 38.000 famiglie e 6 milioni di euro circa. Scusi un attimo, lei dunque che sa di non vincere prevede di spendere 6 milioni di euro se... sì, se... di restituire. E chi gli dà i soldi, 6 milioni di euro, scusi? Ovviamente dando efficienza alla macchina comunale, ma soprattutto tagliando tutti i costi che ci sono, che hanno prodotto la casta precedente politica. Sì, però, capito, signora Bellon, lei pensa di dare 6 milioni di euro tagliando chissà, cioè non è sicuro allora, non è che ce li mette lei i soldi? No. Comunque, ma poi non si può fare, ma poi non si può fare secondo me, cioè non è che lei può... Ma perché non si può fare? Non è che lei può distribuire assegni il comune, un assegno intestato al comune 150 euro a persona. Dai, non si può fare. Ma chi ve l'ha detto? Cioè, guardate che in una situazione di crisi come questa sono le soluzioni innovative che ti portano. Ma questa è innovativa, dai soldi alla gente. Lo faceva Achille Lauro coi panettoni negli anni 50 a Napoli. Abbia pazienza, quali sono le soluzioni innovative? Scusi, con una delibera di giunta si decide che viene restituita questa quota alle famiglie. Che problema c'è? Sì, no, ma tecnicamente si potrà pure fare. Signora, sì, signora mia. Parenzo, dimmi tu. Sì, signora, perché mi deve fare incazzare il venerdì alle 20:50? Ma no, ma non c'è bisogno, siamo a Bellone. Ma no, perché vede che la politica può dare dei risultati concreti. Ma quali risultati concreti? Ma quali, mi fa arrabbiare? Guardi, i risultati concreti, per voi che non sapete, li porta anche Indipendenza Veneta, perché è un percorso che sta facendo proprio il Consiglio regionale del Veneto. Io sono per dare contrario... una possibilità ai veneti di potersi esprimere in maniera legale e democratica. Io sono contrario all'indipendenza delle regioni. Per me le regioni vanno abolite, primo, perché sprecano un sacco di soldi. Ma infatti qui si tratta di costituire una nuova realtà statuale in Veneto. L'abbraccio fortissimo, grazie. Nicola Dacheti. Nicola Dacheti, buonasera. Ciao, buonasera. La gente si inventa, pur di prendere qualche voto in più, se ne inventa di tutti i colori. Adesso pure. Allora, dovrebbe avere il coraggio, adesso peccato che non è più in linea, signora Bellon, Parenzo, di darli subito questi soldi. Se qualcuno si presenta, dai 150 euro adesso. Dali subito. È facile così promettere dopo. Nicola. Gianni, posso dire una parola? Sì. A Parenzo, l'uomo affitto da flatulenza cerebrale, che con l'assistenzialismo si è messo a piangere quando ha detto poc'anzi che Epifani è preoccupato per i dipendenti del PT che non hanno la cassa integrazione. Ma chi se ne fosse, Parenzo, esci da quel corpo. È stato piuttosto chiaro però, signor Nicola Dacheti, con Nicola Dacheti che giustamente dice ce ne fottiamo dei dipendenti dei partiti che restano senza lavoro, aboliamo il finanziamento pubblico. Ci sentiamo lunedì 18:30. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E mi raccomando, pregate, pregate, pregate, pregate. Ciao, arrivederci, un abbraccio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Prendo atto che ormai è tutto finito.